Buongiorno a Paolo Siani. Buongiorno a lei, ascoltatori. Io vorrei partire da quelli che sono appunto gli anelli di legalità. Siani, oggi la sua vita è improntata, ovviamente oltre alla scienza e al suo mestiere medico e quindi di persona che ha contatto ogni giorno con la sofferenza, anche nel ricordo di suo fratello. In quale modo, Paolo? Allora, noi abbiamo cominciato un percorso 25 anni fa, un percorso che partiva dalla rabbia, dalla voglia di non arrendersi, dall'idea di aver subito una cattiveria talmente forte che era impossibile restare fermi e piangere soltanto. E per cui abbiamo cominciato, prima in pochi e poi sempre di più, a ricordare Giancarlo in tutte le nostre possibili occasioni. Abbiamo scelto ovviamente la scuola come elemento determinante per raccontare ai ragazzi la storia di Giancarlo e poi, dopo Giancarlo, tutte le altre vittime innocenti della nostra regione, che sono, ahimè, tante, certo. Perché noi vorremmo raccontare la mafia dalla parte di chi non c'è più, raccontare, diciamo, una guerra dalla parte dei vinti, senza nemmeno dire chi sono gli altri. Vorremmo che i ragazzi di oggi conoscessero le storie di Giancarlo, ma anche di Pippo Fava, di Peppino Diana, di Silvia Ruotolo, di Gigi e Paolo, e potrei dirne ancora 180 di questi nomi, e non piuttosto i nomi di quelli che l'hanno fatti fuori.